A bordo campo di Dario Ricci. Anche quest'anno ha vinto il Nanga Parbat. Torniamo a bordo campo sulle pendici di uno degli unici 2-8000 della Terra ancora inviolati d'inverno. Anche questa volta tutte le spedizioni che su quella montagna hanno provato anche questo inverno a conquistarne la cima sono tornate indietro di fronte alla potenza della montagna mangia uomini. E allora andiamo subito a sentire uno dei grandi protagonisti di questa sfida estrema, di questo inverno. Ben ritrovato via Skype, eccezionalmente qui a bordo campo, a Simone Moro. Eccomi, ciao a tutti. Allora, caro Simone, hai tentato questa sfida non da solo sul versante Rupal, il versante forse più leggendario della montagna mangia uomini. Anche questa volta ha vinto lei, però, eh? Eh sì, ed è già la seconda volta che vince lei, visto che avevo provato già nel 2 anni fa l'invernale dal lato opposto. Dobbiamo essere sinceri, la natura vince sempre anche quando ti lascia arrivare anche fino in vetta, quindi questa sarà non la seconda, la terza, ma sarà la milionesima volta che comunque la natura vince e al massimo ogni tanto ti accetta e ti lascia arrivare fino sul punto più alto. A noi ci ha lasciato arrivare fino a poco più di 7000 metri e questo è già stato un bel risultato. Abbiamo imparato ancora qualcosa e la cosa bella è che il giorno che siamo arrivati a Campobase, subito dopo l'ultimo tentativo, si stava già parlando del prossimo inverno, quindi diciamo che non ha vinto e non ha però ammazzato il sogno e la motivazione di tornare. Sappiamo bene quanto questo linguaggio, no? Vincere e perdere nei confronti di ogni scalata, e non solo quello dei grandi 8000, sia quanto mai improprio. Parliamo piuttosto di un confronto con la montagna. Ecco, raccontaci un po' quanti tentativi avete fatto tu, David Gottlieb, nell'affrontare il Nanga Parbat quest'anno, e quando è che avete capito che effettivamente sarebbe stata inaccessibile anche stavolta la cima? Allora, innanzitutto noi siamo partiti a Natale e adesso mentre stiamo parlando siamo già a marzo, e quindi questo la dice lunga su quanto abbiamo tenuto duro e non siamo stati arrendevoli. Il numero di volte che siamo andati sulla montagna l'ho persin dimenticato, penso che abbiamo fatto almeno 20 o 30 mila metri di dislivello tra su e giù la montagna, e il dislivello che abbiamo salito fino al punto più alto che è stato raggiunto da David è pari alla differenza tra il campo base dell'Everest e la vetta dell'Everest, che è la montagna più alta del pianeta. Ecco, questo dislivello che permette di arrivare in cima all'Everest, al Nanga Parbat ti permette di arrivare a 7200 metri, e quindi la dice lunga su quanto grande sia questa montagna. La vista dall'altra parte, cioè sul versante di Amir, nella quale avremmo dovuto attraversare, poi ha evidenziato che c'erano delle condizioni particolarmente difficili e il percorso è lungo, ci vorrebbero ancora altri 2 giorni e non c'era la finestra di bel tempo necessaria per riuscire a rimanere ancora altri 2 giorni sulla montagna e bivaccare. Quindi abbiamo capito che la via Shell, che è questa via che noi abbiamo scelto, quest'anno era in condizioni particolarmente difficili, come tutta la montagna d'altronde, ma che è una via probabilmente più estiva che non invernale. Questa è l'opinione che ci stiamo facendo a bocce ferme adesso. Ecco, va detto che così come è stato un inverno quanto mai instabile anche da queste parti, come sai Simone da internet e dalle croniche che ti sono arrivate dall'Italia, ancor più instabile lo è stato sul Nanga Parbat, no? Su temperature durissime, e questo era facile immaginarlo, ma anche condizioni del ghiaccio e della neve del tutto particolari che vanno complicato non poco la vita a te su quel versante, così come a Daniele Nardi sul versante di Amir, no? Sì, sì, sì. Questo ci sta nel ciclo fisiologico degli inverni, che ogni tanto fanno i pazzi e ogni tanto fanno gli avari. Quest'anno è stato esempio avaro di condizioni decenti. Devo essere sincero, quest'anno il problema da noi non è stato tanto le precipitazioni nevose troppo abbondanti, quelle secondo me sono state nella norma, ma è stato il freddo e il vento che hanno spazzato veramente tutta la montagna e l'hanno lasciata nuda, che tra l'altro è anche il significato della parola Nanga Parbat, della montagna nuda, l'ha lasciata nuda dalla neve ed era veramente un monolite di ghiaccio e quindi molto più complicato anche tecnicamente da superare. Ma le temperature sono arrivate anche tra la combinazione del freddo e del vento anche oltre i 70 gradi sotto zero. E quindi io sono contento, come sicuramente sarà contento anche Daniele Nardi, che aver resistito nel nostro caso addirittura, ripeto, da Natale fino adesso in condizioni non facili, ecco, la dice lunga su quanta voglia avevamo di provarci fino in fondo, ecco. Eh sì, veramente ce l'avete messa tutta e voi soprattutto siete stati 2 mesi praticamente tra campo base e le varie quote dove siete riusciti a salire. Simone, alla luce della tua esperienza e di quella fatta quest'anno, la sfida al Nanga Parbat è vincibile, permettimi di usare questo termine, da un alpinista del 2014 o è una sfida che Sì. con le... Con le condizioni No. attuali e le conoscenze attuali scientifiche, non è affrontabile. Che cosa manca ancora per conquistare quella vetta? No, assolutamente lo è. Ripeto, il fatto stesso che ho già pensato di venire il prossimo inverno e probabilmente, adesso non posso dirlo di sicuro, ma andrò nuovamente dal versante di Amir. La via che avevo tentato nel primo tentativo con Dennis, secondo me rimane la via più fattibile e più logica, che non cambia a seconda degli inverni balordi, nel senso che rimane sempre in condizioni tutto sommato abbastanza stabili. È sulla porzione a est guardando la parete di Amir, quella che ha affrontato Daniele, e anche perché dicevano che era impossibile fare un 8000 d'inverno in Karakorum perché erano 25 anni che ci provavano. Nel 2011 sono venuto, eravamo in tre e l'abbiamo fatto. Il Nanga Parbat, anche qui, resiste a 25 anni, sono sicurissimo che è possibile farlo. Io sono riuscito a fare già 3-8 mila in invernale, dovrei essere soddisfatto, ma posso per questo dirti che veramente alla luce del fatto anche degli altri 8000 che ho salito, il Nanga Parbat è più alto, vanno cambiate alcune cose rispetto agli altri due tentativi che ho fatto, ma è decisamente fattibile, è veramente solo una questione ormai di mesi o di anni, perché se non è il 2015 sarà il 2016, ma lo si fa. È la stessa cosa anche il K2, ne sono convinto, sono pronto a scriverlo e a filmarlo su un pezzo di carta. Aiutaci a capire meglio che cosa senti che manca, ecco, su cosa lavorerai in questi prossimi 12 mesi Allora, per colmare questo gap? innanzitutto bisogna venire a Nanga Parbat già acclimatati, cioè non si può scalare Nanga Parbat nello stesso modo con cui lo scaleresti d'estate. È veramente un altro pianeta, un altro mondo. E infatti, nei 3-8 mila che io ho fatto, e fino in vetta, in invernale, il Cisapagma, il Makalu e il Gashen Brum 2, li ho fatti facendo una fase di acclimatamento precedente, cioè arrivando al campo base, avendo già il corpo umano quasi pronto per tentare la vetta. E invece qui siamo arrivati tutti, e anche l'ultima volta, pensando di fare acclimatamento sulla montagna, quindi salire, scendere e posizionare i campi. Questo è probabilmente palese, un errore palese, perché la montagna ti regala poche finestre di bel tempo e quelle poche che ti regala devi usarle già per tentare la vetta o andare molto in alto. E quindi penso che la prossima volta cercherò di fare acclimatamento su montagne, o magari del Pakistan, o magari prima andare in Nepal, fare acclimatamento, ma arrivare qui dopo il 21 dicembre, che è la regola ferrea per considerare invernale una scalata, e cominciare già ad andare molto più velocemente, andare già molto più in alto, essere insomma più pronti a lanciare il tentativo alla vetta, più che lanciare i tentativi per andare a montare dei campi alti. Dal punto di vista dell'alimentazione, della preparazione fisica, ci sono margini di miglioramento? Ma guarda, penso di. Allora, c'è sempre margine di miglioramento, ma non posso definire un limite oggi né la tecnologia, né i prodotti, dalle scarpe all'abbigliamento a qualsiasi altra cosa, né all'alimentazione. Noi abbiamo sempre mangiato italiano, anche a 7000 metri abbiamo mangiato i tortellini, abbiamo mangiato il formaggio grana, abbiamo mangiato, cioè mangiavamo bene. E questo è una cosa importante, appetibile. No, qui bisogna arrivare con il corpo umano già pronto ad affrontare l'altra quota, perché tu puoi allenarti quanto vuoi, puoi essere il vincitore olimpico della maratona e sapere anche scalare, ma come arrivi a 4.000 o 5.000 metri, le tue prestazioni fisiche vengono ridotte dell'80-90% a causa della carenza d'ossigeno. Quindi bisogna arrivare invece con già acclimatati, quindi con un numero di globuli rossi quasi doppio rispetto a quelli che abbiamo normalmente, senza usare strategie dopanti o vietate che non fanno parte della mia filosofia e del nostro mondo, ma semplicemente scalando altre montagne alte prima di cominciare una scalata invernale qui in Pakistan. Molto importante questo ultimo elemento che hai sottolineato. Ti chiedo ancora, prima di lasciarti al meritato riposo dopo tanti, tanti mesi di disagi e sforzi, si dialoga anche in questi tentativi con la montagna. Ecco, questa volta cosa ti ha detto il Nanga Parbat? Mi ha fatto vedere quanto è grande, è veramente la montagna più grande del pianeta. Io ho salito l'Everest 4 volte fino in vetta e quindi dovrei pensare di essere salito sulla montagna più alta e quindi nel punto più distante dalle sicurezze che sono giù a livello del mare. Ebbene, il Nanga Parbat è 650 metri, 700 metri più basso dell'Everest, però è 2 volte l'Everest, perché, ripeto, il campo base è 3.580 metri, la vetta 8.125, il dislivello che a me è servito per raggiungere gli altri 3.800 in inverno e tutti gli altri 8.000 che io ho salito sul Nanga Parbat serve giusto arrivare a 7.000 metri, quindi è una montagna con sopra un'altra montagna. Mi ha detto, quindi il Nanga Parbat, Simone, sappi che io sono doppio. Ebbene, allora Simone Moro, la sfida è solo rimandata, ti aspettiamo ancora una volta su quelle pendici fra 12 mesi in un nuovo inverno per un nuovo dialogo col Nanga Parbat. Intanto grazie per aver condiviso questa avventura qui con i tuoi amici a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi per aver creduto anche nell'alpinismo, grazie ancora. Grazie davvero a Simone Moro. Ora una breve pausa, poi torniamo insieme sulle pendici del Nanga Parbat. A bordo campo. Ancora il Nanga Parbat, ancora su quelle pendici oggi a bordo campo. Torniamo su questa cima inviolata. Ebbene, abbiamo sentito il racconto di Simone Moro al rientro, a lui senza aver conquistato la vetta, provando a scalare la montagna Mangiauomini dal versante Rupal, e ci spostiamo invece sull'altro versante, il versante di Amir, quello a nord del Nanga Parbat, dove ha tentato a sua volta di conquistare quella cima ancora non conquistata in inverno il nostro Daniele Nardi. Ben ritrovato, sempre via Skype, oggi puntata davvero particolare per A Bordo Campo. Ben trovato Daniele Nardi. Ciao Dario, ciao a tutti i radioascoltatori di A Bordo Campo. Daniele, dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono in stanza a Islamabad, pronto per prendere l'aereo e rientrare a casa, finalmente dopo questa spedizione piuttosto complicata e difficile. Ebbene Daniele, si torna senza lo scalpo del Nanga Parbat nello zaino. Spiegaci un po' cosa è accaduto durante questa spedizione. Ma veramente il Nanga Parbat quest'anno lo mostrava lo scalpo, perché in realtà tutta la neve che avremmo dovuto trovare sulla montagna è stata portata via dal vento, quindi ne è uscito fuori, diciamo, questo ghiaccio molto vivo e duro che ha reso particolarmente complicato, diciamo, la scalata. Più di qualche amico mi ha fatto una battuta, no? Dicendo: "Ma come, Daniele, vai in inverno, vai su una montagna di 8.000 metri e pretendi di non trovare il ghiaccio?" Ma lì non è questione di trovare il ghiaccio, è che è un ghiaccio veramente molto difficile da scalare e, diciamo, purtroppo la trasformazione della neve, che generalmente fa l'inverno, dovrebbe permettere una salita più agevole, soprattutto quando si decide di andare da soli. Questo non è avvenuto e quindi ha complicato in maniera decisiva, diciamo, le condizioni di scalata, soprattutto sullo sperone Mammeri. Ecco Daniele, diciamo pure che hai sottolineato come fosse un particolare secondario il fatto che tu hai tentato in solitaria questa scalata in stile alpino attraverso quella via, lo sperone Mammeri, che è ancora non mai aperta nella direzione appunto verso la vetta. Insomma, un tentativo assolutamente estremo, permettimi di dire. Ma sicuramente quando sono partito sapevo perfettamente che andare da soli in stile alpino lungo lo sperone Mammeri avrebbe richiesto oltre ai grandi sforzi per l'anno scorso, ma soprattutto, diciamo, basse percentuali di riuscita. Però era quello che volevo fare, cioè la vetta non come simbolo della prima in assoluto, ma il fatto di mettere lo stile in primo piano, cioè quello è l'obiettivo, era l'obiettivo principale. Ormai lo stile classico funziona da quando è stato inventato, dalla prima invernale, e quello che sto cercando di fare è di lanciare un messaggio un pochettino più forte, chiaramente che ha delle percentuali sia di rischio che di riuscita minori, che è quello appunto di cercare di portare quello che si fa d'estate, cioè uno stile molto leggero, lungo vie nuove, e farlo anche d'inverno. È chiaro, la domanda è: si può fare? Cioè, siamo all'altezza oggi di poter fare questa sfida? Io ci sto provando. L'anno scorso ho ottenuto un grande risultato. Quest'anno, purtroppo, tra le condizioni del ghiaccio e la meteorologia, che non mi è proprio stata, diciamo, d'aiuto, è chiaro che siamo tornati senza lo scalpo del Nanga Parbat. Però va bene così per quest'anno. Grande esperienza, ho imparato tante cose, si vedrà per il futuro. Ecco, c'è anche chi nell'ambiente ha detto: ma dove va quel Nardi, no? Quasi bollando il tuo tentativo come animato da un'ambizione spropositata ed estremamente pericolosa, no? Vista la sfida che ti eri posto. A posteriori, fatta anche questa seconda spedizione sul Nanga Parbat, ti senti di rispondere a queste critiche? Ma è molto facile rispondere, nel senso che l'anno scorso ho dimostrato che pur essendo con Elisabeth praticamente siamo andati sempre slegati. Il problema grave è attraversare il ghiacciaio in basso, che purtroppo significa che se si è in due si è legati, quindi se si apre un ponte o si cade dentro un crepaccio l'altro può aiutare, se si va da soli chiaramente non si ha chance di sopravvivenza. Però sullo sperone sono andato slegato anche l'anno scorso, sono sceso comunque con delle corde doppie, lo stile è stato pulito, quindi perché non farlo da solo? È chiaro che come tutte le scalate che si fanno da soli le percentuali diminuiscono ancora. Io la percezione che ho avuto quest'anno è che ero veramente nelle condizioni di poterla fare la salita. Però ci sono una serie di condizioni che la montagna deve presentare che non è facile che si incastrino per bene tutte insieme, tra cui le condizioni della neve, la meteorologia e poi il proprio stato psicofisico. Per cui io se dovessi rifare e dovessi promettere una seconda sfida oggi, lo farei di nuovo in solitaria per rispondere proprio a quelle persone che sono convinto più che prima che quella scalata in quella maniera sullo Spremio Mamili si può fare. Ma deve incontrare determinate condizioni. Sarei pronto a scommetterci su. Beh, staremo a vedere se la montagna mangia uomini e accetterà questa scommessa. Sentivamo prima Simone Moro che diceva probabilmente è una scalata fattibile in inverno, il Nanga Parbat si può conquistare, ma meglio sarebbe e meglio sarà riprovarci avendo già compiuto altrove, magari o su cime circostanti, l'acclimatazione, no? Arrivare alle pendici del monte già pronti per effettuare la scalata perché le finestre di il tempo non superano i 3-4 giorni e quindi non si può sperare molto di più nel periodo invernale sul Nanga Parbat. Ecco, è un'opinione che condividi? Ma io chiaramente rispetto le dichiarazioni di Moro, che ormai dopo aver fatto più vette in invernale, insomma, ha dimostrato di avere una gran classe in quelle condizioni. Ma questa è una cosa che io dicevo già dall'inizio, studiando le sue scalate, quelle di Wielicki, di Berbeka e di altri grandi alpinisti polacchi che hanno fatto la storia. Lo stile classico garantisce un maggior numero di percentuale di riuscita, ma sul Nanga Parbat, che probabilmente dopo il K2 è in assoluto la più difficile d'inverno da effettuare, chiaramente anche quelle sono basse. Quello che ho detto io, proprio perché le giornate sono poche, lo stile alpino estremo in quelle condizioni può garantire la possibilità di riuscita, perché riduce il numero di giorni fra la salita e la discesa. Purtroppo quella è una montagna che va affrontata con determinate caratteristiche, cioè se quelle condizioni non si presentano nell'inverno, lo stile alpino è difficilmente applicabile. Tant'è vero che proprio quest'inverno sulla via Chisciofer, il tentativo che ho fatto, avevo cominciato a mettere in atto uno stile che è una via di mezzo fra lo stile alpino e lo stile classico, che è una sorta di stile a capsula che prevede il trasporto in solitaria di materiale in una certa maniera, che adesso tecnicamente è impegnativo da spiegare. E stava funzionando. Purtroppo il crollo di un seracco a poche decine di metri da me chiaramente mi ha fatto desistere e mi ha fatto scendere. E purtroppo via web è difficile raccontare queste cose, ma mi piacerà magari in in futuro poterlo raccontare meglio. Le occasioni davvero non mancheranno, Daniele. Dicevamo dell'esperienza fatta e delle cose che ti ha insegnato in questa seconda spedizione, il Nanga Parbat. Ecco, proviamo a sintetizzarle. Qual è l'esperienza che riporti in Italia nella tua Sezze? Ma intanto penso l'esperienza più grandiosa che io volevo fare era un'esperienza solitaria e questa è riuscita appieno, cioè io penso di aver dimostrato in qualche modo a me stesso di poter affrontare delle spedizioni solitarie che non è proprio così scontato, no? Il fatto di essere lontani, di non parlare mai italiano, di non avere delle amicizie intorno, di poter scherzare e divertirsi facilmente e farlo soprattutto in un campo base che diciamo, ha avuto una tragedia qualche tempo fa, non facile da gestire. Questo mi ha permesso di avere ancora più fiducia in me stesso e credere nei miei progetti con la realtà, non in realtà di esserci stato solo lì, di averlo affrontato. Ho fatto comunque un tentativo a punta piccola, questa cima di 5.900 metri, probabilmente mai scalata, sicuramente la prima invernale da solo, un tentativo sulla Kirchhofer, e questo mi dà tanto coraggio, tanta forza e tanti dati da analizzare per il futuro. Quindi io sono estremamente felice della spedizione. Chiaro, fosse arrivata la vetta sarebbe stata un'altra cosa, ma c'è tempo, insomma, la montagna è lì, ci aspetta. Dal punto di vista della preparazione psicofisica, ti rimproveri qualcosa? Qualcosa sarebbe stato possibile far meglio? Ma considerando le condizioni che ho in particolare trovate quest'inverno, forse oggi mi sarei concentrato, avrei dedicato un po' più di tempo a un certo tipo di scalata e soprattutto del tipo solitario, no? Prima di partire ho affrontato la parete delle Murelle, che è una parete di settimo grado, di 600 metri, da solo. Ecco, fare qualche scalata in più di quel tipo. Anche in Appennino, come la parete delle Murelle sulla Maiella, credo che mi aiuterebbe di più. Per il resto, da un punto di vista fisico e diciamo psicologico, per me era tutto perfetto e andava alla grande. Tanto che torno a casa in un certo senso riposato, perché in realtà non ho potuto mettere a ben prova il motore che fino a quel punto, diciamo, ha funzionato alla grande. Beh, Daniele Nardi, adesso non è che manchino le montagne dove mettersi alla prova, quindi tutta quella forma potrà ben tornarti utile in nuovi importanti obiettivi. Ti chiedo, salutandoti, prossimo anno sarà ancora Nanga Parbat? Simone Moro già ci ha detto di sì, tu che pensi? Non lo so, perché diciamo il tipo di sfida che io ho lanciato, diciamo una sfida assoluta, a prescindere che sia la prima al Nanga Parbat o che sia la seconda, la quarta o la quinta, cioè già mi immagino che magari più di qualcuno sia salito in vetta al Nanga Parbat, ma io ritorni comunque fra qualche anno a riprovare quel tipo di cosa. Ci sono altre montagne, altri progetti a 7.000 metri che mi chiamano fra l'India e il Pakistan, c'è anche il K2. Che è lì, che aspetta la prima invernale. Chi lo sa? Non lo so. Sinceramente, in questo momento non lo so. Quello che è sicuro è che i prossimi mesi saranno pieni di montagne e pieni di scalate. Questa è una promessa. Beh, allora ti auguriamo di mantenerla, non dimenticare anche i progetti che hai a bassa quota, so che ne hai parecchie, quindi dividiti bene tra mare e montagna. Daniele Nardi, allora grazie per aver condiviso con Radio 24, con A Bordo Campo, questa straordinaria avventura. Ti aspettiamo qua in studio per parlare delle prossime sfide. Dario, io ti aspetto sempre in vetta al mondo, eh. A prestissimo. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it, scaricare anche dal sito il podcast di A Bordo Campo, dialogare con noi attraverso il blog e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima, sempre alle 16.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.